questa notte calda di ottobre, apriti il cuore, non stare lì in silenzio, senza dire niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre di buttarti via. Il cuore non è un calcolo, fredde matematico, lui non sa dov'è che va, sbaglia, si ferma e riprende, e il suo battito non è logico, è come un bimbo libero, appena dici che non si fa, lui si volta e si offende, non lasciarlo mai solo, come ho fatto io. Lascia stare il potere, il denaro, che non è il tuo Dio. O anche tu rimarrai senza neanche un amico. Cambierò, cambierò. Apriti il cuore, ti prego, fatti sentire. Non è di niente, di niente, di niente. Anche davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse in miliardi. Cuore, non parli, o sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente, ma non ho più parole, in questa notte di ottobre, sento solo lontano il misterioso rumore. È la notte che piano si muove e tra poco esce il sole. Cambierò, cambierò. Apriti il cuore, ti prego, fatti sentire. Cambierò, tornerò come un tempo padrone di niente, di niente, di niente. Cuore, ti prego, fatti sentire. Cambierò, tornerò, oh, come un tempo padrone di niente, di niente, di niente.